Mi sentite? Sì. Non è attaccato? No, sì. Perché forse lo devo attaccare qua. Sì. Si vede qua. Che non sono avvezza. Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere qui nel Container Concept Store di Torino. Quest'oggi ci sarà la settima edizione dell'Angelico Certame, organizzato da Max Ponte e da Erika Merlo. È già stato fatto in diverse città, a Milano, a Torino, a Padova, Parma, scusami, mi è rimasto il pa. E quindi quest'oggi ci saranno sei, giusto, poeti emergenti, possiamo chiamarli così, li racconterai tu, perché faranno una gara per vedere appunto chi vincerà questo concorso. E io lascerei la parola a Max. Vi ringrazio di essere qua, siete i benvenuti in questo spazio che tutti dicono che è magico, chi lo sa. E poi una cosa importante è che inizierà poi questo pomeriggio una performance particolare, la vivrete, e Giovanna Turrini, che è con noi da qualche parte. Grazie Max. Allora, un applauso a Antonietta, perché non è che ci ha ospitato e che ha creduto anche in questo lavoro, cioè non è... insomma, puntare e ospitare la poesia non è da tutti, implica, ecco, una certa apertura, una certa disponibilità e anche, ecco, una certa comprensione, perché il lavoro dei poeti non sempre è un lavoro così evidente come altre forme artistiche. Allora, noi iniziamo dicendo che l'Angelico Certame è una gara di poesia, come abbiamo detto, una gara di poesia performativa, quindi non, il poeta non viene semplicemente qui per dire le proprie poesie con la voce, ma ha delle possibilità ulteriori, cioè quello di usare il proprio corpo, di usare degli oggetti, ecco, di mettere in gioco nella più grande completezza le sue arte. Allora, ci sono tre prove, vi spiego un po' come funziona. La prima è di improvvisazione, quindi il poeta sarà chiamato a creare una poesia hic et nunc, ecco, in 10 minuti, ecco, su un tema che poi andremo a sorteggiare. La seconda fase, la seconda invece prova, è una prova performativa, quindi il poeta può presentare la sua poesia, un suo, per così dire, cavallo di battaglia, una poesia già, per così dire, rodata, come diceva Marinetti, il quale sosteneva che le poesie andassero rodate, così aveva tutte metafore, ecco, meccaniche o industriali. E la terza fase, che è quella che caratterizza questa competizione, una fase dedicata completamente al teatro o alla teatralità. Quindi il poeta è chiamato a portare una poesia, sua scelta, però metterla, è chiamato anche a metterla in scena in modo più libero, ecco, attraverso abiti di scena, vestiti, musiche, oggetti. Quindi massima libertà, ecco, per portare in scena il proprio lavoro. E questa è, se vogliamo, anche la fase più delicata e una fase che a volte spaventa anche un po' il poeta. Infatti, ecco, la partecipazione all'Angelico Certame è estremamente, diciamo così, fatta per pochi, ecco, poeti che si vogliono mettere in gara, che hanno già una capacità propria performativa. Sì, è vero, sono poeti emergenti, però hanno già, ecco, al loro attivo degli spettacoli, oppure proprio questa indole proprio di tenere, saper tenere la scena. Sempre più importante per il poeta oggi, ecco, come sanno anche i nostri giudici, ecco, il sapere, ecco, tenere la scena. Allora, io vi farei scegliere subito il tema, ecco, della prima fase. Allora, intanto chiamerei Enrica Merlo, che in realtà l'organizzatrice di questo evento. Fate un applauso a lei, perché è lei che ha organizzato praticamente tutta questa puntata. Io in realtà sono un balletto in questo questa situazione, però adesso andremo a votare, ecco, i temi della prima, ecco, della prima prova. Allora, prima di tutto, quali sono i temi? Sono tre, ecco, memorizzate, che poi dobbiamo votare. Allora, il primo è il caldo. Il caldo. Inteso dal punto di vista termico, ma anche no, fate voi come preferite. Il secondo tema attuale, i naufraghi. E il terzo tema è sempre quello che è un tema un po' più prolisso. Metafisico. Dice, guarda che devi finirla di stressarmi, che non è cosa. Questo è il terzo tema. Guarda che devi finire di stressarmi, che non è cosa. Può capitare. Allora, ripetiamo, il primo tema è il caldo, il secondo i naufraghi, il terzo, vedi che devi finirla di stressarmi, che non è cosa. Allora, non fatevi prendere dall'ironia, scegliete veramente il primo, il secondo, dopo il terzo. Allora, chi vuole votare per il caldo? Quindi può alzare la sua mano. Ci sono due persone che hanno caldo. Chi vuole votare per i naufraghi? 2, 3, 4, 5, 6. 6, vero? Sì. Chi vuole votare per guarda che devi finirla di stressarmi che non è cosa? Vedo che anche in questo caso hanno vissuto tantissimo, ecco, il terzo, ecco, la terza argomento. Questione. Allora, rimani qui e tienimi il microfono. Nomi dei giurati. Sì, no? Presentami. Allora, abbiamo la nostra Laura Scaramozzino, che è una poetessa, sì, e anche scrittrice di romanzi scientifici, giusto? Sì. Ecco, esatto. Infatti, deve avere l'astronave parcheggiata fuori. Esatto, infatti, dopo ci super Urano. E poi abbiamo Elena Circei, una bravissima poetessa, io è da un po' che la mi sta guardando male, è una bravissima signora che gioca con le parole anche lei, e che se non vuole essere definita poetessa, benissimo, che ho tampinato fino a che l'ho convinta, ho detto vieni dai, okay. Benissimo, poi abbiamo i nostri due giudici del che pubblico, si chiamano? Che si chiamano? Giuseppe Di Renzo e Chiara Penti. Chiara Penta, che tra l'altro farà parte anche del nostro reading libero. Benissimo. Perfetto. Adesso allora ricordiamo come funziona la giuria. Allora, la giuria deve votare dopo ogni esibizione, in ogni esibizione con un voto da 0 a 10, meglio lo 0, insomma. Lo dico sempre a tutti, perché è una cosa brutta. E niente, verranno sommati tutti i voti. E alla fine uscirà fuori questo benedetto vincitore anche da questa settima edizione dell'Angelico Certame. E altro cosa possiamo dire? Allora, prima di tutto bisogna dire che adesso, chiarito il fatto, lo mettiamo là, e così guarda che devi finirla di stressarmi che non è cosa, e sulla base di questo, di questa frase, che non necessariamente poi ti devono ripetere, sono chiamati i nostri artisti a creare la poesia, quindi mettetevi tranquilli, i nostri sei artisti che andremo dopo a presentare uno per uno, ecco, però loro sanno chi sono, cominciamo a dire almeno i nomi, loro sanno della loro esistenza, della loro esistenza. Non è detto, ma scrivendo la poesia si appunto entreranno si individualizzeranno. Ecco, dopo andremo a presentarvi, quindi evito di farvi l'elenco. Iniziamo, ecco, con. Io vado a sedermi. Puoi sederti, sì. Con la poesia, ecco, che ho scritto proprio dedicata all'Angelico Certame, intanto che appunto arriverà la nostra artista. E la poesia fa così. Il combattimento degli angeli, inardite mosse poetiche, prese a terra e meraviglie, in frasi sorelle fra le nuvole certanti nel traffico aeroplano, di voli low cost e poi aureole, architetture barocche. Noi saremo rapidi, e parole come saette, vinceremo copricapi a punta per bucare le stelle, e di grazia la poesia, l'angelico certame, la festa, in tempo di pace, in tempo di guerra. Allora, direi che possiamo iniziare. Dove la nostra artista presentiamo Giovanna Giulini. Vieni qui che diciamo due parole. Giovanna Turini, io sono contento che lei sia qui con me perché assieme abbiamo, ecco, questo legame con un poeta torinese che non c'è più, Arrigo Loratotino, sì, che entrambi abbiamo conosciuto e ricordiamo con piacere, è il considerato il fondatore, il più grande esponente della poesia sonora, ecco, del dopoguerra in Italia, e quindi alcuni, ecco, di noi hanno proprio appreso tantissimo, quindi il lavoro che sentirete da Giovanna Turini va in questa direzione, questo possiamo dirlo, in questo filone di poesia sonora, di poesia performativa di alto livello, dico io. Lo dici tu. Vabbè, lo dico io. Giovanna, sono meno sperimentale. Sì. Però al di là di questa sperimentazione sono degli esempi che ci portiamo, sì, in qualche come modo dietro, come sperimentazioni precedenti. Esatto, la poesia ha un suo filone, per così dire, più tanto per tradizionale, per cui si parla di poesia lineare, semplicemente quella scritta sulla carta che voi leggete silenziosamente. Nero e su poi bianco. Esatto, nero su bianco e in maniera, per così dire, come si suol dire, più intima, più silenziosa. E poi c'è una poesia diversa, una poesia orale, performativa, che va a toccare la persona, la vita, entra nella vita e si ricollega in qualche modo alle avanguardie storiche, alle neoavanguardie e anche all'arte contemporanea, che è quella, ecco, che insomma vedrete in questa sede o che potrete vedere. Tutte potete vedere le avanguardie che hanno sperimentato già tutto, per cui a noi rimane ben poco altro. Beh, da fare, ma rimane il che fare. D'altronde, si attrezza. D'altronde, se vogliamo, dall'antichità e dalla preistoria, dal momento in cui hanno fatto i graffiti, ecco, diciamo che la sperimentazione, l'innovazione è decaduta. Cioè, la capacità del poeta o del narratore è far sembrare nuovo, ecco, ciò che nuovo non è. Ecco perché la capacità e la capacità, appunto, di chi appunto sta a reinterpretare, ecco, la vita. Allora ti lascio la parola, ti scuso per questa introduzione. Giovanna Turini ci presenterà un lavoro, ecco, di 10 minuti, molto interessante, mi dirai tu se vuoi introdurlo o se no ne parliamo dopo. Prego. E nel frattempo... No, l'unica cosa che... Enrico, vuoi dire qualcosa? Sì, devo solo ricordare che nel frattempo i... È definitivamente caduto il... Cappello, sì. Cappello. I poeti possono cominciare a scrivere il loro proponimento durante questa... Sì, l'abbiamo detto che i poeti possono, anzi devono, non è una possibilità ma una necessità, scrivere la poesia, ecco, come si dà, come abbiamo previsto. Allora lascio la scena a Giovanna. Che in realtà intanto recupereremo il cappello che si è andato verso il centro della terra, perché ogni corpo fisico si è attratto, come diceva, verso dal centro della terra, poi noi lo recupereremo, lui ritornerà su, quindi non preoccupatevi. In realtà io non dovevo essere presente, volevo fare l'introduzione per in realtà tu non ci sei, voce. Io in realtà non ci sono, ok, non ci sono, e per quello ero posizionata di là. Volevo dare la voce è mia, la composizione è mia, ma il testo, io sono specializzata, questa tra virgolette è la mia via sperimentale, quella che mi ha dato in sorte il destino, anche fatica, perché poi ovviamente uno studia, ma a parte la produzione poetica mia, che sì, va bene pubblicata, ma io sono una grande amante delle piante e degli alberi, e quindi mi chiedo sempre vale la pena l'abbattimento di un albero, quello che produco io, avendo gli dèi regalatomi, non chiedetemi perché non lo scoprirò mai, ma questo dono che decidono loro, le muse, le parche, gli dèi, di comporre per voce dalla poesia dei grandi nelle varie lingue che conosco, alla fine propendo sempre ovviamente a dare la voce ai grandi. E, qui sarà un po' diverso perché tre quarti della mia produzione in musica è in lingua straniera, mentre qui uno dei significati dell'angelico certame è anche la coltivazione e la sperimentazione della lingua dell'Arno, insomma, della nostra bellissima lingua con tutta la sua tradizione. Quindi adesso basta, perché chi fa un, almeno io la penso così, chi fa una performance dovrebbe, è lo spettacolo che dovrebbe parlare, non dovrei stare qui a raccontare molto. Io adesso sparisco, in realtà non sono mai stata qui, e do presto la mia voce al grandissimo Michelangelo come primo pezzo. In chiusura poi ci sarà un'altra grandissima Dickinson, in italiano, con un lavoro traduttivo, e in mezzo ho incuneato un po' di testi miei, perché questa volta mi è toccato in sorte. Sarà ad estrazione del pubblico, perché non sono riuscita, da 12 testi sono arrivata a 6, e 6 però erano ancora troppi, e allora ho deciso, andiamo ad estrazione del pubblico, vediamo cosa ci dà in sorte a tutti la scelta. Allora, io faccio partire la voce di Michelangelo e io appunto sparisco come un tinì. Allora, estrazione del lotto. Vediamo cosa ci tocca in sorte. Sono 6 testi, però appunto per motivi di tempo, di economia della cosa, solamente 3. Abbiamo al posto, quindi scopriremo quali dei 3. Sì, mi è capitato tra le mani un sacchetto di questo posto magico, di questa lampada di Aladino, e quindi in mezzo ci sono anche dei segnalibro con particolari citazioni simpatiche, quindi se per caso qualcuno capita in mano si può leggere anche quella per dividere un po' questi pensieri. Volontari? Estrazione, sì, non è niente di pericoloso, non è niente di... Aspetta che devo... Sono piegati, ah. Non sono appallottolati. Quindi sono queste... Eccolo qua, dove sta? Busta numero 1. Max, vuoi che te? Boss? No, quello è il foglio bugiardo, Michelangelo. 2. La bambina. Quello. La bimba, signore. Vabbè, va. Ok. Due litigati. È una sorpresa anche per me, per cui ho potuto prepararli solo in parte, perché non sapendo cosa sarebbe stato estratto. Abbiamo Domini. Ok, questa è una lettura con un finale un po' ritmato. Ah, meno male, è venuta fuori Trattoria, che è questa. Anni fa è stata una pubblicazioncina di una signora di Domodossola, appassionata di libri antichi, che pubblica solo queste cartoline a cercarsi le foto, e ha trovato lei questa trattoria di baffoni, che purtroppo adesso non c'è più. E la terza è Pulizia per levarsi via, perfetto! Ma la sorte di tanto ci dà una mano. La sorte poi tanto ha sempre ragione lei, che vada storta dritta, ma comunque non se ne esce. Allora, Domini. Domini è quasi solamente detta, è un po' scherzosa, un po' seria. Domini, plurale di dominio, in quel senso. Il menarca, monarca della mia vita, tiene aperto l'accesso alla rete delle reti del mio ciclo, biciclo, triciclo, il cerchio che nella rete gira, gira, gira, unico vero operaio di questi tempi moderni, operaio e ciclo fanno fatica, perché si fatica e come a stare a tempo, a stare al tempo del mondo, perché si fatica a stare al tempo, al ritmo mare del mondo, stare al tempo, al ritmo mare del mondo, eterni per sempre, viventi, presenti, eterni per sempre, viventi, sopravviventi. La prima poiesis, sì, sopravvivenza. Adesso la trattoria. È scritta perché ci sarebbero trattati da dire, ma non è questo il luogo. Tra parentesi, perché nella trasposizione in voce cambia proprio anche il testo, cioè la forma modifica anche parte di contenuto. Trattoria. Ci si assaggia di rado, raramente ci si pregusta. Ci si assaggia di rado, raramente ci si pregusta. Degustazioni minori di sapori triti. Il battuto rifatto di ieri nella trattoria, senza pretese del presente. I mal tagliati sfilacciati nell'ordito del dire. I mal tagliati sfilacciati nell'ordito del dire. Ci si assaggia di rado, raramente ci si pregusta. E adesso una bella pulizia. Che ce ne sarebbe? Tra fisica e metaforica. E lavare via il proprio sudiciume la sozzura del mondo, e lavare via il proprio sudiciume la sozzura del mondo, ignavia, vigliaccheria, meschinità, rabbia, dolore del mondo, ignavia, vigliaccheria, meschinità, rabbia, dolore del mondo, nascere e rinascere ad ogni lavata di spugna, oltre piccolezza e limite, oltre piccolezza e limite. Lavarsi, lavarsi via, levarsi, levarsi via. Lavarsi, lavarsi via, levarsi, levarsi via. Finalmente. Io vi auguro, ma consegno l'ultima parola appunto alla grande Dickinson. E la versione per la scena ho lavorato io sull'italiano, che è una delle varie forme su cui si può lavorare per la nostra lingua. E questa è la famosissima Dickinson 441, questa è la mia lettera al mondo. Dickinson non ha mai dato titoli, sono tutte senza titolo, quindi per capirsi si prende il primo verso. Questa è la mia lettera al mondo, che non ha mai scritto a me le semplici novità che natura dava di conto contenera maestà. Il suo messaggio è consegnato a mani che non mi ha dato vedere. Era amore suo, paesani miei dolci, tenero giudizio abbiate di me, tenero giudizio abbiate di me, perché questa è la mia lettera al mondo, che non ha mai scritto a me le semplici novità che natura dava di conto contenera maestà. Il suo messaggio è consegnato a mani che non mi ha dato vedere. Per amore suo, paesani miei dolci, tenero giudizio abbiate di me, tenero giudizio abbiate di me, perché questa è la mia lettera al mondo, che non ha mai scritto a me. Il testo di Dickinson. Grazie. In questo caso viva gli alberi. Allora, finito. Grazie a Giovanna Tulinis per questo lavoro che lei ha fatto per noi. E... Sbaracco la mente. Sì, tranquillamente, non c'è fretta. Tanto noi li chiamiamo i poeti e cerchiamo di presentarli prima che vengano qui. Allora, Enza La Salandra dov'è? Sarà in giro? Ho scritto un arrivo. Sarà andata a scriverla fuori all'aria aperta, vedi così in qualche modo arriva. Ci sei? Stai lì, non ti muovere, era per presentarvi. Paoletto Icre sarà anche in giro, penso. Nick Mann è qui con noi, Chiara De Cinghis anche, Davide Massaro c'è e Antonella Pavaro anche, quindi ci sono un po' tutti. Allora non vada via in Sala Sandra perché stiamo iniziando, non so dove lei vuole iniziare a leggere la sua poesia, ma è questo il luogo naturale per le poesie. Ecco. Allora ripetiamo, i poeti possono, ecco, anzi devono performare adesso la loro poesia basata sul tema che il pubblico ha scelto. Guarda che devi finire la distressami che non è cosa, questo è il titolo. La giuria potrà esprimere voti da 0 a 10, soprattutto, ecco così, tentando di valutare, ripeto, sia la parte testuale che la parte, ecco, performativa. Quindi valutateli insieme, ecco, non è soltanto il fatto del testo, il testo è importante. Però nell'angelico certame è importante anche la presenza scenica, la capacità orale e chiaramente è importante il vostro giudizio, ecco, personale sull'autore e sull'artista. Il tempo limite è di 2 minuti, quindi l'angelico certame è leggermente più breve di altre gare, quindi devono essere estremamente brevi nella, ecco, espressione, nella rappresentazione del loro lavoro. Allora, però prima di iniziare con Enza La Salandra, che non vada via, io chiamerei il nostro campione in carica, ecco, che è Danilo Torrito, che è qui, ha vinto ben 2 gare, cosa questo rumore di fondo, è pre-registrato, è un rumore che lei si è portato da casa. Ecco. Da casa il rumore. Perché? Come tutti, Esatto. Danilo Torrito ha vinto ben 2 gare, ecco, in maniera legale, onesto, e continua, ecco, a mietere successi uno dopo l'altro. Vedete proprio la gente per le strade mietuta, boccheggiante, proprio che dice no. Parte gli scherzi, è il nostro campione in carica, ecco, visto che questa volta, ecco, non poteva partecipare proprio perché il vincitore salta la gara successiva, abbiamo pensato, ecco, di dare a lui lo spazio per, ecco, rompere il ghiaccio e per regalarvi, ecco, un suo brano. È sempre un piacere ascoltarlo. Lascio la parola a Danilo Torrito. Non so cosa ci riserva, io non ho anteprima. Non lo sapevo neanch'io che cosa gli avrei riservato. Si è praticamente composta l'altro ieri, me lo dovevo. Si intitola Il buttafuori. Specchio, specchio delle brame, sto all'angelico certame. Sì, però non sono in gara. Cosa triste, cosa amara. Lui m'ha detto, tu sei fuori. Per sto giro tu sei fuori. Niente allori e niente onori, tu Torrito resti fuori. Ho pregato Donna Merlo per un posto mini averlo, ma la bionda ha detto fuori, così vuole il buttafuori. Ho parlato con Martina, le ho promesso una gran cena, scimmiottando la mia rima, lei mi ha detto sono già piena. Senza tanti di rigori mi hanno messo dunque fuori, posso solo declamare ma al di fuori delle gare. E va bene, resto fuori, niente allori e niente onori, ma se faccio degli odori, voi con me venite fuori. Sono odori da poeta, qui qualcuno mi li vieta, ve li faccio fuori gara, in silenzio il morso spara. Così andiamo tutti fuori, esce pure il buttafuori, per qualcun saranno dolori, per qualcun saranno malori. Non temete, sto scherzando, io sonetti non ne faccio. da qualche volta camminando li compongo così a braccio. Specchio, specchio delle brame, sto all'angelico certame. Sì, lo so che sono fuori per voler del butta fuori. Bravissimo, eh? Come diceva Piccio Baudo, l'ho inventato io. Ecco, iniziamo, entriamo nel mezzo delle gare. E poi abbiamo altri poeti che parteciperanno all'open mic, li facciamo passare tra una mancia e l'altra. Ecco, io seguirei quest'ordine con Enza La Salandra. Facciamo un applauso a Enza. Guarda che devi finirla di stressarmi, che non è cosa. Vabbè. Non ve lo dico. Il tuo amore traballante, con la sua voce assillante, mi rimbomba nelle orecchie, mi aggroviglia le budella, mi avvicina a un mero inferno. Non toccarmi, non mi piaci, e per una volta taci. Ho scoperto che io vivo, e lo sai, tu non sei un divo. Dove sei? Sei solo mia, non parlare, son la CIA. La tua gonna è troppo corta, e per poco non son morta. Dacci un taglio, spegni il raglio, che io presi un gran abbaglio. Me ne vo felice e sola, che la sorte mi consola. Con la vita sulle spalle, tanto tu hai rotto. No, rimani qui. Facciamo rimanere il poeta anche qui, così se lo ricordano. Ecco, direi che dovete esprimere voti da 0 a 10, quindi scriveteli con la vostra potenti mezzi elettronici sulla lavagnetta. Noi sommeremo i 4 voti, abbiamo un calcolatore elettronico di ultima generazione, un pallottoliere. Bene, abbiamo tra l'altro giuria tecnica, la giuria popolare. Tutto a posto? Possiamo alzarli, direi, i voti. Alzateli pure. Abbiamo un 8, un 7, un 6 e un 8. 29. Bene, per Enza La Salandra 29, che io appunterò sul mio rotolo magico. Prego. Questa era quella della gara. Sì, esatto. 29 per Enza La Salandra, Paulette Ducret. Un applauso anche per lei. Devi finire da distressare e andare a faccia circolare. Tra intermittenze barcollanti di ubriacature stanche e grigie, a che ora sono tornato ieri con le luci già spente dei lampioni per sentirmi dire: guarda che devi finire di stressarmi, che non è cosa. Tornai e mi accorsi che ero nato sul serio, senza surrogato, ma con tanto di etichetta di buona marca di un DNA dimenticato. A che ora si è svegliato il mio cervello drogato di rabbia tra granelli di fondali da salvare, mentre mi dicevi: guarda che devi finire di stressarmi, che non è cosa. E intanto mi assorravi sul serio e pensasti: è diventato già grande, o forse no, ma l'amo più di prima, che non si conosceva, che osservava senza gli occhi, agiva senza sentirsi accanto. Ed ora è padrone di ciò che ha in testa. Dai, dimmelo, dico io, a che ora ti sei aperto con le idee chiare e forti, spiegate al vento, per tuffarti in ciò che avevi dentro, mentre sento che mi dici: guarda che devi finire di stressarmi, che non è cosa. Rimani qui. Vedo che tema assai sentito, chissà perché. Allora, abbiamo i voti, vedo un 8, la giuria popolare, questa qui, vediamo la giuria tecnica, 8 e 9, 8, 16, 24, 32, 33 per Paulette. Nick. Attimo, credo. Avevo capito il titolo male, siccome lo metto due volte, volevo capire. Guarda che devi finirla di stressarmi, che non è cosa. Te lo dice chi si osa, sei persona fastidiosa che mi stressa senza posa. Sono ad uso ad un abuso, ma tu guarda, non è il caso, questo è quasi il sadomaso. Tu mi hai preso come all'aso per il collo e per il naso. Certo, forse io sono teso, ma mi sento come il peso di un obeso sul torace. Non respiro, la stanza sembra tanto chiusa. Mi si è chiuso sopra il muso, pure il naso sembra occluso. Gira tutto, sono confuso, ogni nervo è come abraso. È discosta e son pervaso. E non indosso mica raso. E il tuo sbuffo sulla nusa che mi ha aria tanto ansiosa. Sei tu troppo appiccicosa. Guarda, devi finire di stressarmi, che non è cosa. Siamo cosa dice la giuria tecnica, giuria popolare, e se corrispondono anche un po' i voti, eh. Vorrei che se... aspetto che segno tutti, 8, 9, 9, 7. 33. Ok, perfetto, 33 per Nick Mann e poi Chiara De Cillis. Un applauso a Chiara De Cillis anche, e non ti manco con le feste di qui. Già la zanzara morde fastidiosa la caviglia e l'afa strozza la parola prima ancora che essa dica, sia partita. E tu continui caldo a strapazzarmi, a dirmi come vivere la vita e come sopravvivere, e aggiustarmi, farmi adulta. Guarda, lasciami stare, non è cosa. Non è casa, questa stanza chiusa di cucina, a luce bassa. Taci, taci, mangia gli avanzi della cena. Amore mio, io esco di scena. Grazie Chiara, rimani qui, amore mio. Sentiamo cosa dice, dicono i giudici. Cominciamo ad alzare il tiro, 10, 8... 10, 8, 9, 8. 35. 35 per Chiara che balza a prima in classifica, adesso la gara è appena aperta. Dico 35 e chiamo Davide Massato. Bravo. Ancora non è iniziato. Buonasera. Ciao. Ma smettila di stressarmi, perché tanto la mia anima è immune alla tua negatività, ma la tramuterò in amore. Sette, sei, sei, sei. 6, 12, 18, 24, 25. 25 per Davide Massaro, un applauso anche a lui. Complimenti per la memoria, perché ovviamente se l'è puntata a memoria la poesia. Allora, 25, poi Antonella Bavaro. Brava! Guarda che devi finirla di stressarmi che non è cosa. Sì, l'ho mangiato io, sì, il formaggio, le carote, io non ne so nulla. I fagiolini sono in forno. No, non quello elettrico, quello a microonde. Ma non ce l'abbiamo. Ah, è vero, hai comprato la spa per i piedi. Allora vado a dormire senza cena? Non so, chiedi al frigorifero. Sono io il frigorifero e sono vuoto. Mi hai talmente stressato con il senza glutine che ho smesso di funzionare. Aspetta, deve andare via, cosa belle che volte a quelle poesie non si capisce quando finiscono. Ma così è. No, no, no. Ci sarà la puntata successiva, 8, 16, 24, 32 per Antonella Bavaro, grazie. Allora, intanto che passiamo alla prossima manche, i poeti possono preparare la loro poesia, ecco, per così dire, di successo col quale hanno vinto. tutti i premi possibili. Intanto chiamerei Enrica alla lettura della poesia, ecco, fuori concorso, e così facciamo anche un piccolo intermezzo. Va bene, anche il mio è il cavallo di battaglia, anche il gatto di battaglia, direi. Ormai sarà questo, perché vi leggo sempre questo. Mai lo saprai. Abbiamo la stessa forma della bocca, piccola amica, sai. Magari di notte anch'io cammino sui cornicioni e vedo oltre. Magari mi acciambello e faccio le fusa sotto la coperta nelle notti d'inverno dove nevica fitto. Magari grazie alle mie vibrisse ho sventato mille agguati senza vedermene. E con i miei artigli so graffiare meglio di te, piccola felina dagli occhi verdi ed ipnotici. Magari con i miei occhi ho stregato qualcuno che ora soffre. Creatura delle verdi foglie, cosa indicava il tuo dito, il cielo o l'inferno? Non mi è dato di saperlo, non lo voglio sapere, e ora stai in un cantuccio e mi spii, e non posso avvertire, ma non me ne curo. Anzi, faccio finta di non curarmene, perché donna gatta non mi è dato di fermarmi, gatta donna non mi è dato d'amare, di voltarmi indietro, di fermare l'istante, di prendere fiato, di svelare il cuore dei miei occhi, di aprire il mio cuore fiorito. Aggrappati, aggrappati, aggrappati, non posso e non devo, me ne vado, approfitto della bruma, ora mi vedi? Ora sono scomparsa, eppure c'è la luna. Non sai cosa ti sei perso a non tendermi la fatale trappola, e mai lo saprai. Questa poesia dedicata in modo particolare a tutti i miei gatti, ne ho quattro, però a Cannella, la mia più vecchietta, che ha 6 anni. Grazie mille, ti ringrazio. Rilascio la parola mia a Max. Salutiamo anche Cannella, per non si sa mai. Allora, ricominciamo dall'inizio, perché adesso ritorniamo sulla gara, perché i numeri non sono, ecco, un'opinione, in realtà questi poeti devono portarsi a casa un risultato. Allora, ricominciamo da Enza la Salandra con una sua poesia. Sono la fase di gara dedicata, per così dire, alle poesie già, ecco, facenti parte, ecco, del bagaglio del poeta, quelle che se le porta dietro quando non si trova in difficoltà nel tirare fuori una per far corpo, ma non sempre riesce a fare corpo a volte. Così. Infatti non mi dico una poesia. La mente steppata, stoppata e incartata, il titolo. Stappa, stoppa, steppa, steppata, stoppata, incartata e incantata. Cantata, amata, casta, diva, dica, duca. Ducato, incartato, incantato, stoppato, steppato, steccato. Salta, cuore, olio, odio, podio, sogna, bisogna e trisogna, triste, tristano, isotta, vino, vivo, morto, morta, scorta, avvistata, avvisata, mezza salvata, saltata, salutata, ave, cesare, cesareo, parto, vado, quo vado, qui qua, oppure là, là, là, là, la canzone finisce qua. Paperino, paperina, scarpetta, principessa, mezzanotte, rintocco, tocco, tocca, bocca, cocca, scocca, sciocca, sbocca, sboccia, fiore, fiorente, fervente, mente, mente, bugiardo, infingardo, ardo, arduo, compito, compito, ardito, finito. Grazie, sentiamo cosa dice la giuria. No, rimani. Diciamo che tutti i poeti rimangano qui perché il loro corpo diventi, venga sacrificato. 6, 6, 27, 7 e 8. 27. Dice il nostro giudice. 27 per Enza la Salandra, e passiamo a Paulette Ducrem. Che bravo, brava. Evanescenza, ti urlo addosso il mio ardore, con voce tremula nel cuore, martellante, ridondante nelle tempie saccaci. senza più respiro e forze. Della passione non si intravede emozione segreta, fusa nell'intimo riservo. Taccio e i tuoi occhi parlano, fugace sguardo il mio venato d'incanto, labbra dischiuse dal desiderio prosciugate, pervasa da tutto e da niente, sazia del tuo respiro, della tua figura presente, suggestiva gioia che mi invade, null'altro serve. Se parlassi non riuscirei, carezze ed effusioni, baci e tenerezze, sono le giuste note nello spartito di una musica svanita, lontana, di freddezza annebbiata, tu, e tu io così grande, in un mondo così piccolo che ti guarda, assorto dal tuo essere. E lieve ancora la mia voce in bocca nella sorgente illusione, la tua presenza evanescente nel buio di una notte nera ammantata di niente. Ho visto la Giulia Popolare particolarmente veloce, allora 8, 9 e 8, 9, 34. Brava, grazie. Intanto non l'ho fatto prima, però vi vorrei segnalare che nella manch precedente i poeti hanno fatto veramente un grande lavoro in 10 minuti, e quindi fare un applauso a tutti quanti adesso. In ogni caso abbiamo la fortuna di avere la registrazione di questa prima fase. In 10 minuti vengono fuori delle poesie eccezionali, la capacità di improvvisazione, di cogliere l'attimo, ecco, è qualcosa che i poeti devono, ecco, coltivare veramente. Allora lascio la parola a Nick qua. Chiamami pure Emanuele. Emanuele. Lo pseudonimo di Gesù. Il dado rotola. Cala il silenzio, la quiete. È uscito un venti, tiro salvezza contro il diabete. Raccontiamo di noi ogni giorno, ce ne riempiamo le orecchie e gli occhi. Non ci rendiamo conto di quanto siamo sciocchi a non apprezzare chi abbiamo attorno. La gente muore, per farla breve. Se volete rendere la cosa più lieve, per me quando muori diventi una storia e poi rivivi in chi ne memoria. È un po' foscoliano, ma credo diverso. Non conta il sepolcro, credo che in fondo ogni persona tra gli altri sia immerso e insieme trasforma questo mondo. Anche un suo gesto, un ammiccamento, provoca sempre un cambiamento in quello che pensa colui a cui è rivolto, a volte di niente e a volte di molto. E questa è una cosa di grande importanza, il nostro operato continua anche dopo. Non sono distrutte energia e sostanza, come può il nostro animo non avere scopo? Per me rimane a cambiare le persone, anche dopo anni, ma non so proprio come. Cioè, so dove parto, ma non so dove vado. È un po' come il modo in cui rotola un dado. Probabilmente una volta che è tratto, si rigira un po' in aria, quindi non è immediato, però quando atterra il gioco è già fatto, lo puoi solo leggere il risultato. Nina era un uomo di scienza e passione, amava i computer, il gioco e la distruzione. Amava Cristina, ma era un donnaiolo. Nell'ultimo tempo viveva da solo. Non era perfetto, impulsivo ogni tanto, autolesionista, so quello che dico, ma lasciava un segno in chiunque di accanto, e per me soprattutto era il mio amico. Quello con cui parlare non serve. Un goccio di Daniels e zero riserve. Mi mostrava un problema sempre in altra maniera. E quando contava, per me, in fondo c'era. Un'amicizia che trovo sì rara che non riesco a immaginare di averla di nuovo. Per questo l'assenza mi gusta sia amara e per quelle serate perdute al suo covo. Ma quello che davvero ci tengo che afferri è che il dado si legge ovunque sotterri. Che può stare in aria per giorni e per ore e che Nino amava quel loro rumore. Un rumore di jack, di lacchi, di cuoio, di ridere bestemmie contro tutti i santi, che non finirà mai nel dimenticatoio, perché Nino di dadi ne lanciava tanti. Grazie Emanuele, rimani qui, rimani qui con noi. Aspettiamo che alzino tutti, c'è 2, 7, 7, 9, 8, il nostro notario dice 31, grazie Emanuele. Allora, Chiara De Cilis. tu che risiedi nel non dovrei. Aspettiamo. Scusate. Riparti, riparti. Tu che risiedi nel non dovrei, sorridimi. Dimmi, come si vive dalla parte di quelli che non hanno scelte da compiere, ma restano mele, quelle più intere e patinate di cera nella cassetta, su cui pesa un cartello bianco con su scritto non toccare. E io vorrei indossare guanti di gomma per non ammaccarti, pesare le tue curve su una bilancina e insacchettarti, portarti a casa e con un coltellino scoprire cosa c'è lì sotto quella scorza di frutto proibito. Invece passerò accanto al banchetto e un dito furbo fuggirà dalla mia manica. Ti toccherò con le mani sporche di fumo e città. Ti rimarrà un livido, sarà un segnetto, un dispetto per chi, con un po' di coraggio, riuscirà a prenderti, a uscire dal sogno perfetto del non averti. Grazie a Chiara De Sillis, rimani qui e vediamo cosa dice la giuria, soprattutto se l'entusiasmo del pubblico corrisponde a quello della giuria. 10, 10, 10 39 e 9, e quindi fa 39, un bottone per Chiara De Sillis, grazie. Devo dire, giuria tecnica, giuria popolare, ecco, meno male si trova sulla stessa lunghezza d'onda. E non si conoscono neanche. Capiamo che no. Prego. Capiamo che no. Sì, ma infatti su questo non abbiamo dubbi, dopo li metteremo un po' alla prova su altre discipline. Davide Massaro, dov'è? Davide Massaro. Tu puoi far volare le tue idee fino ai confini infiniti del cielo. Vedi quelle nuvole lassù. Si dividono, si gonfiano, ma non cadono mai. Così devono essere i tuoi sogni. Vola alto e non arrenderti mai. Bravo! Grazie Davide, rimani con noi. Allora, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 27. 27 per Davide Massaro, grazie. E passiamo ad Antonella Bavaro. Stiamo andando veloci, perché così sono 2 minuti massimo ed è questa l'opportunità dell'Angelico Certamente. Grazie. Martedì sedia. Ormai schiava in lei, ora lo vede ed eccoli avvicinarsi e lui non sa che tipo di sedia è. L'esperienza di quella donna per attaccarsi a lui e seguirlo. Una donna in quella città. Una, un vaso di alabastro profumato e lui piangendo a piedi. Asciugava i suoi capelli e baciava lei. Giovedì parlò e disse: Dream, be, be. Dream, be, just. Dream, dream. Tic, tic, tic. Non temere di scendere là. Io scenderò con bittintin color, ring ring color, ring ring color, ring ring color. Color. Color. Ring color. Tic, tic. Tic. Sono lo stesso fifo alla canizie. Mi di di di di di tre. Grazie. andare via, non andare via. Non segni di spavento la Giulia. Sette, quattordici, ventuno, ventotto, trenta per Antonella Bavaro. Che dimostra che la Giulia ha retto abbastanza bene. Devo dire che insomma la Giulia insomma ad alto livello. Intanto siamo arrivati alla fine della seconda manche, tutti i poeti possono incominciare ecco, a preparare i loro aggeggi di scena. Intanto noi abbiamo, ecco, potete cambiare però di qua, sul camerino questo. Intanto noi proseguiamo con l'open mic, giusto, avremo giusto 5 minuti, ecco, non di più. Proseguiamo con l'open mic con i poeti, ecco, quindi vi prego di non perdere l'attenzione, che sono qui appunto per questo. Quindi ricominciamo, ecco, Enrica, ci dici il nome dei poeti che sono qui per leggere. Abbiamo Martina Merlo, Domenico Cavallo. Abbiamo Domenico Cavallo e la signora, che ho perso il nome, Marianna. La signora Marianna, e c'è anche Chiara Pente qui con noi. Marianna Barbaro. Allora io comincerei da Martina. Poi passiamo a Domenico Cavallo. Applauso a questi poeti che devono tenere a leggere la scena mentre gli altri si cambiano. Prego. L'interruttore. Come un alveare l'interruttore pullula di vita, polvere di eterno appoggiata sui vecchi tasti da tempo bui, senza più sole. Ogni tipo di esseri, piccoli certo, ma dai grandi cuori, più grandi della bontà. Sembra ridicolo, ma anche nell'abbandono in un interruttore vive la speranza di riaccendere la luce. Grazie a questa poesia di Martina Merlo, che l'aveva ecco, performata per un angelico certame dove c'era come tema l'interruttore. Ecco. Domenico Cavallo. Dov'è il fans di Domenico Cavallo? Ci facciamo vivi. Sempre. Voglio vedere sempre una luna sulla tua bocca. Una mezzaluna che si allarghi per irradiare la sua luce continua in ogni momento. Che continui anche di giorno per mascherare le tue sofferenze che non lamenti. Saggezza e calma, aghi della bilancia di una vita semplice, senza fronzoli. Cammini piano piano, senza disturbare, col sorriso di sempre. Grazie Domenico Cavallo. Allora, poi abbiamo Chiara Pent, che ha preparato un lavoro ecco, basato su uno studio psicologico e che appunto mi aveva inviato via mail, molto interessante peraltro. Buongiorno a tutti. Allora io vi farò ascoltare un esempio di psicanalisi in poesia, o psicopoesia si potrebbero chiamare. E proprio qui a Torino c'è stato il Festival della Psicologia ad aprile, c'erano i manifesti anche abbastanza in giro, il titolo era Io non ho paura, allora comincio da qui. Io non ho paura. Tu non hai paura. Invece io ho tanta paura. La relazione non fa paura in sé, eppure in una stanza, io e te, non sappiamo mai quanta fiducia e quanta paura riempiranno gli spazi tra le tue e le mie parole, tra i miei e i tuoi silenzi. Ogni volta che ti incontro, incontro me stessa e ogni volta che ti incrocio, inciampo in qualcosa di me che non vedevo prima. Ho fiducia, e anche tu ne hai, ma non basta, perché io ho paura. Ho paura di me e ho paura di farti paura, ma mi dà coraggio sentirmi capita e mi emoziona sentire il mio coraggio e non ho più paura. Perché colui che si prende cura dell'anima e della mente si siede in una stanza accogliente, giorno dopo giorno, ora dopo ora, e davanti ai suoi occhi scorrono immagini e nelle sue orecchie racconti, parole e silenzi, Di fronte si siedono persone, di età diverse, uomini, donne, dai corpi più diversi. E lui ricama, intreccia i fili del suo lavoro con i fili della loro vita. Ricama e coi suoi fili riconcilia il presente al passato, collega il dentro col fuori. Scorge, tra oniriche visioni mai banali, un filo dorato e con quel filo ricama sfumature benedette. Riveste di chiarezza memorie amare. Non sempre riesce a sorridere quando lavora, ma sorride sempre quando ricama. Ricama e sfilaccia l'ordito e la trama, fino a che prigioni sconosciute e rifugi segreti si aprono. Mostrano ciò che nascondevano e nuovi, sorprendenti giochi di luce riempiono i vuoti creati nella tela. Ricama e trasforma le lacrime, quelle trattenute e quelle improvvise in luccicanti perline da ricamo, e trasforma le parole in splendidi fili colorati. Non sempre riesce a sorridere quando lavora, ma sorride sempre quando ricama. E le vite di uomini e donne, dai corpi più diversi, di età diverse, cambiano. Piano piano diventano vite vivaci, vite viventi. Grazie a Chiara Pente per questo studio psicologico. Allora, intanto la signora... Performerò l'atto di... Anche no. Allora, Rosanna, la signora Rosanna... Marianna, chiedo scusa. Fate un applauso a Marianna, ha deciso di leggersi. La memoria, quindi come prima esperienza a memoria. Cioè, vediamo anche un applauso ulteriore. È una cosa qui particolarmente. Senza titolo. Posso anche non usarlo? Ma lo tengo. Sta bene. Sì. Volevo soltanto dire in dialetto, se non capite. Quale dialetto? Faccio una traduzione. Vabbè, non lo vogliamo sapere, lo sappiamo quando lei lo dice. Quando è un moro, non voglio croci. Non prediti, non calici e non croci. Non voglio come sono campani e manco la mia gente visitusa. Che per amore di Dio voglio morire. Essere atterrata senza croci, che basta quante tirai e quante tiro. Grazie alla signora Marianna, è stato veramente un piacere ed è sempre un piacere ascoltare anche la poesia in dialetto siciliano. Mi suggeriscono calabrese. Ma è simile, calabrese? Sì, calabrese. Sì. Perfetto. Allora, vi spiego l'ultima prova, che sarà molto rapida. Allora, in questa ultima prova la giuria è chiamata a prestare molta attenzione a quello che vedrà e ascolterà, perché oltre chiaramente l'espressione poetica c'è anche veramente la messa in scena, quindi ci saranno degli oggetti, ci saranno dei vestiti, degli abiti di scena, quindi sì, effettivamente, come diceva il nostro giudice, siamo più vicini al teatro, anche se non è teatro tout court, ma è, ecco, un'espressione, rimane alla base, ecco, un'espressione poetica. Quindi state molto attenti a questa corrispondenza fra il testo e la sua messa in scena. Chiaramente, chiaramente sarà un lavoro non facile, e non è detto che i poeti che hanno, ecco, avuto dei grandi voti nelle due manche precedenti riusciranno a farla bene, lo speriamo, però non è detto. Quindi adesso un attimino vediamo che punto sono, perché è sempre un momento un po' delicato. Potrebbe essere ribaltato. Intanto potrebbe essere ribaltato perché è una capacità, ecco, questo ulteriore che alcuni poeti hanno e altri effettivamente no. Intanto chiedo due opinioni così volanti alla giuria e anche alla Laura Scaramuzzino, come ti pare stia andando l'evento. Sono davvero molto molto entusiasta di quello a cui sto assistendo, perché sono tutti molto preparati e in effetti la dimensione performativa noto che è ben portata in scena. Non che non lo pensassi, non lo immaginassi, ma vedo che c'è un forte impegno dal punto di vista dei poeti in questo. E a me piace questo perché permette loro, secondo me, di mettersi in gioco e quindi anche di evolversi e migliorare anche per quello che poi c'è nella forma, no? Perché come tu ben sai, poi forma e contenuto alla fine si chiamano uno con l'altro, finiscono per portare sempre un'evoluzione e un miglioramento. Poi mi piace che ci sia sempre mescolanza di generi, mescolanza di età, e che quindi uomini, donne, ragazzi, persone più o meno anziane, appunto, si cimentino con questo, con questa dimensione. Davvero io provo con pochissimo imbarazzo, anzi, anche se magari alcuni di loro non hanno chissà quale esperienza teatrale eccetera, però devo dire che sono molto molto contenta di questo. Grazie. Grazie. Giudici, volete dire qualcosa? Ma Laura ha detto tutto. Tutto. Dai. No, per me è la prima volta che faccio il giudice, proprio questi poeti mi... Sento qualcosa dentro, qualche poesia mi fa pensare alla mia vita. E proprio ringrazio questa opportunità. Grazie. Grazie. Abbiamo un poeta in più. Prego. Sì, no, ma dovrebbe essere in realtà, se condividete questo pensiero con me, insomma, la funzione della poesia e del poeta dovrebbe essere questa, insomma, in qualche modo interpellarci. E far sì che questo lavoro, insomma, sia espressione, insomma, di un sentire comune o comunque dei moti universale e dei moti del proprio spirito, che poi sono sentimenti che appartengono a tutti da sempre. Quindi se i poeti riescono a fare questo, secondo me anche in pochi versi hanno già fatto un grandissimo lavoro. Allora, direi di proseguire assolutamente la gara. Io sbircio qui a vedere, spero che nessuno sia ignudo davanti ai miei occhi. Sono completamente vestiti, ma direi di iniziare con Enza la Salandra. Fate un applauso a questa donna che si gioca il tutto per tutto dalle scuole, come dico sempre io, dalle scuole elementari un poeta si gioca il tutto per tutto. Prego. Ok, pensavo di avere più spazio, quindi devo cambiare la cosa. Avrei dovuto rotolare per terra. Sì. Ci riprovo senza rotolare per terra. Un abbraccio di tiepido sole scalda il mio cuore braccato. Una morsa di gelo imprigiona il mio viso in una smorfia senza te. Non mi troverai così al tramonto delle nostre vite. Non sarò una statua di cui il tempo non ha avuto pietà. Risorgo dalle mie ceneri, risorgo dalle tue mani cattive. Mi riprendo la mia vita e rinasco libera. Grazie. Grazie. La Salandra totalizza un 33 e passiamo a Paulette Ducret. Paulette Ducret, vediamo un po' se si è nascosta. Paulette? Ok. Dannati! Dannati, pianti sommersi in fondo alla mente nell'inferno più gelido, imbevuti d'alcol penetrante, tra ossa distratte, evanescenti. Dannati pensieri rarefatti, andati lontani, chissà dove, chissà, ma accorcio il cuore, non lo faccio più battere in espansione, e si ingrossa, soffocando, sanguinante, maledetto ricordo devastante. E sprofondo e respiro per l'ossigeno che non ho e riprendo imprecando ancor vita nella vacillante ballata di una ubriacatura senza ritorno. Dannate le ombre che da compagne malsane si fingono d'affetto infinito al mio corpo infermo che non freme più della passata passione ormai sconosciuta agli occhi, alla mente, al cuore che è caduto a pezzi nella tomba silente e non prova più niente. Se lo ricompongo realizzo il puzzle più cucito che c'è nel suo filo sfilacciante, zampillante faville di pezze! Vediamo cosa dice, per usare un termine della poetessa, la dannata Giulia. The apostrofo annata anche. 19, 18. Wow. 37. Giù. 37 per volerti te. Brava! Che va a casa contenta. Non vada proprio a casa del tutto, stia ancora un poco qui. E abbiamo invece Emanuele, che intanto sta muovendo sulla scena, non so bene per cosa sta facendo, cosa stia facendo, ma è una delle aspetti. Cinema, teatro, necrologi. Seguendo l'ispirazione purtroppo è scivolato. Cadendo da un enciombo, ma il collo si è spezzato. Un altro, povero in canna, mancato ai distenti. Non aveva che Sinetto che invece d'alimenti. E una un epitaffio condito di sarcasmo, in quanto crocifisso è stato sopra un chiasmo. Per uno è stato un incidente, hanno fatto confusione. Stava avendo un ictus e credevano fosse una allitterazione. Un altro è caduto in guerra. Non ferito, ma perché ci è rimasto troppo male. Non era metonimia, difendeva la bandiera in senso letterale. Uno è stato orribile, è meglio se non vedi, strappato in due da un simoro, qui era legato mani e piedi. Un po' come quell'altro, spiaccicato come pongo, in mezzo a due vocali che facevano di tongo. L'orario della morte ancora non si stima di quello che lì al freddo aspettava un'altra rima. Chi è morto di percosse, urtato da un'anafora, suicida invece quello che ha messo come a una metafora. Uno per un'allegoria ha fatto la fine del coniglio, un altro saliva sull'iperbole, mano a mano ha perso appiglio. In tutto questo capirete se a scrivere oggi non so incline. Anch'io ho un po' paura di fare brutta fine. E vediamo che fine farà adesso invece il nostro Emanuele. Io non posso esprimere i miei giudizi in questa sede, ma lo farò. 9, 7, 9, 8, tutti i voti alti. 9, 7, 9, 8 e un 33 per Emanuele, grazie. Bravo. E abbiamo la Chiara De Cillis. Mutande per mutanti e criptoporni balenanti. Ricordi la sera all'Hotel Politecnico? Ricordi la sera all'Hotel Politecnico? Ricordi la sera all'Hotel Politecnico? Era pomeriggio e solazzavano i tranvieri in sciopero sbronzi sulle rotaie del 16 al tramonto. Morte. Ti raccontavo fanfole di Maraini, o Verdina. Tu t'appellavi al sacrosanto vezzo, al cristonato fumo di minore. E come se rampavi sulle rampe da cavalla, e come avevi gambe da puledra. Adios. Addio. Addio. Io non ricordo più niente. Del segno che lasciasti non v'è rimasta traccia. Vendesi al bazar degli astanti le tue trecce recise, i tuoi occhi già spenti, cristiani non praticanti e mercanti d'arte sacrileghi. Non lo posso patire il rumore di porte chiudentisi e l'odore dei freni sfregantisi. Non mi frega di questo avanzare, a me importa il tempo del pistone, 2500 giri al minuto e viti senza fine, in retro, avanti, march, via col gas. Il futuro non è mai stato così demodè. Se ci pensi, in memoria al contrario, il passato si è fatto visione e Cassandra finalmente azzeccava le cose da dire. Ad un Giano bifronte, il cui mezzo e la fine è qui intero, è perfetta illusione. Vendesi le tue calze velate, pelli d'alpaca e tenerissimi suricate. Se arrivasse poi un giorno un cliente a comprare le mie controfferte, le mie ciarle divelte senza avere radici, gliele regalerei, direi, prendile pure. Fatti un sandwich di trecce e mutande, ma ti prego poi non riportarle. Al Best Quality Hotel, Overdina, tu mi aprivi le gambe felina. E volavano schiaffi, voleranno domani, nelle nostre violenze trovavamo le mani. Ed ho scelto di venderti, di rinnegarti, per non centellinare gli istanti, per non perderti un giorno nel crampo da vecchio. Lascia solo la foto all'Hotel Politecnico, in cui non apparivi e non c'eri, riempivi. Adios, addio, addio. Io non ricordo più niente. Del segno che lasciasti non v'è rimasta traccia. Annuncio svendita totale per totale fallimento. Ho dovuto nasconderti dentro una scatola per non farti trovare all'esattore di palle dell'ufficio dei presentimenti molesti. I totalitarismi e i totali riuniti tremano sulle mie furibonde cosce da vichinga. Abbaio, abbaio, abbaio, abbaio. E non mi abbagliano più i falsi fari, le torce degli sbirri, le sberle di mamma e papà. Sono grande ormai, non mi prendono più. Abbasso le serrande, spalanco le gambe, ti offro il mio ventre, negozio vacante. Scopami tu, mondo ladro e bastardo. Ti amo. Omosessualmente parlando, io ti adoro. Non chiedermi il senso, il profondo. Adios. Addio. Addio. Grazie a tutti, rimani qui. Forse siamo andati un po' fuori, un po' tanto. Sentiamo cosa dice la giuria valutando l'insieme di tutto quanto. Allora, 10, 10, 9, 9, 18 sono 38. 38 complessivamente, grazie a Chiara. Grazie al segno di 38. E sentiamo Davide Massaro. Sai, anche la luna sorride ad un bimbo che è dentro te. Bimbo, metafora della vita, delle tue idee che stanno sorgendo dentro i tuoi pensieri. Amali. Grazie a Davide Massaro. Sentiamo subito quello che dice la giuria, non vada via. Abbiamo un 7, un 7, un 6, un 6. 6, 12, 18, 6, 24, 24, 25, 26. 26. E poi sono anch'io molto curioso di, ecco, assistere all'ultima performance, che è quella di Antonella Bavaro. Bavaro! Bavaro! Bavaro. Fa parte della performance. Due settimane che ti dico che devi dire un'altra cosa. Cioè, di questa cosa cos'è qua? Ma guarda, no, lascia stare, va bene, va bene. Era proprio quello che scelta. Allora, aspetta, però, io ho un problema, non mi funziona il cellulare, quindi non posso mettermi una musichetta carina per farmi un po' ballare. Quindi farò così. Io lascio, metto un po' di principio attivo, quindi, perché ho, questo, cioè, cerco di averne un po' di più, ma per adesso va bene. È il principio attivo che basta oggi. Scusate, mi metto qua. E qua ci sono delle riviste per chi vuole poi, insomma, sfogliare mentre io vado di là a prendere il resto. Però, ma qualcuno ha un cellulare che funziona? Ma Barbarò? Non badate a me, perché adesso chi non so quanti ce ne sono, però insomma non so se devo partire da loro, se devo partire da lui, insomma qua c'è un po' di lavoro da fare. A testa io partirei dalle giuriste. Giuriste? Giurai anche. Le giuriste. E chi non riuscisse ad avere il bigliettino, perché purtroppo, a parte lei che mi chiede tanto tempo, guarda, è scordatissima, tanto io ho detto, ma mi arrangio, non importa. Più di uno. Sì, uno. E poi chi non dovesse avere il bigliettino, avrà un principio attivo. Io già non mi ricordo che avere il principio attivo. Lei è tantissimo. Quanti ore? Quanti minuti? Un paio di sciocchi. Il bello è quello. Secondo me passeranno per tutti. Scusate che faccio parola. Il principio attivo. Tocca a te. Giuro che non è un tentativo di seduzione, cioè, che cavolo. Oh, il principio attivo lì. Finito. Adesso sì. Questo è un problema tica della mia prof di pedagogia della creatività, che non faceva altro che parlare di principio attivo. Un giorno avrà forse la possibilità di approfondire, lo so. Sì, poco poco. Comunque chi lo vuole poi ce ne avanza. Il problema è il dopo. Adesso non so cosa succederà, però avete tutti i... Sì, sì. Principio attivo un po', sì. Te ne serve un po' a te, ma un bel po'. Voi il mio, principio attivo. Ma tu hai bisogno di bigliettini, di principio attivo? Ti lascio tutto il cappello. Allora, adesso tocca a voi però sbrogliarvi, perché... mi rilasso. Scusate. Allora, non lo so cosa succederà, ma mi diverto. E vabbè, questa è la mia chitarra. Angelica si chiama. Angelica. Sono andata via per dare questa chitarra, dove le due corde si sono rotte. Però andiamo avanti lo stesso. Vi chiedo solo di sbrogliare. Sì, principio attivo. Sì, poi dovrebbe crearsi una specie di sonorità in cui poi da lei e poi si riparte. Insomma, partendo dal primo, poi andando più veloce possibile, e poi un po' lento, veloce, un po' vediamo. Cosa nasce? Leggo? Sì. C'è scritto. Ma non badate a me, voi dovete pensare a loro. Ah. E io penso se riuscirò. Un paio di shoes. La versione dello 007 russo. Scusa? Versione della 007 russo. Ripeti tutto. Un paio di shoes. Ok. Versione dello 007 russo. Un paio di shoes, versione dello 007 russo. 300 poltrone per due. 300 poltrone per due. Signora, lei l'ha preso. Io sto ballando. Ah beh, no, perché in realtà non so cosa sto combinando. Mi metto. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, posso. Signora, lei è Dada. È Dada? Dada, sì, lei è Dada. Giri, giri la pagina. Qua, questo? Perché non siamo stati noi? E perché? Perché non siamo stati noi? Perché? Perché? Alle Olman, poi parliamo che c'è una sorpresa. Chissà che è capitato nel cappello, lei, profumata. Questo me lo tengo di ricordo. Ok, ma allora, però bisogna che le darò tutti, perché sennò qua si fa... Ecco. A me è lunghissima, la leggo tutta. Sì. Allora, ama senza riserve, fidati degli altri, hai l'amicizia con i vicini di casa, crea bellezza intorno a te. Io non l'ho messa io quella frase. Certo. L'ho messa io. Primo bacio, il primo bacio. Cannella. Matteo non fare l'errore di Matteo di finire dentro il bacio di Cannella. E per caso nel panorama videro la signora Dada che aveva una poesia ma non riuscì a leggerla, se non dopo tanto tempo lei disse da. Oh, scusate, ma ce n'è ancora, non li tenete in tasca, io voglio sentirli tutti. Buona scottatura, io vedo anche due fidanzati laggiù, vero? Nessuno è diverso. Ok, io non mi ricordo, riusciamo solo velocemente. 300 per 2. 007 rosso. Un paio di shoes. Felici. Wow. Tic, non siamo mai stati felici, perché non siamo mai stati laggiù. Laggiù dove bisognava andare. Laggiù. Dicelo tu. Comune fitness. Ecco. Cosa? Fitness. Ci manca la fitness. Io farei un bel applauso. Bravo. Che ha avuto proprio il senso della brevità della performativa, ma noi siamo tolleranti. Non ho capito il principio attivo, però. Tolleranti. Il principio attivo che io solitamente. Sì, ma diciamo che più che la fantasia la creatività, perché io ho conosciuto il principio attivo con il, per me il principio attivo è il bigliettino bianco, no? Il foglietto bianco dove ognuno può veramente essere un po', cioè essere poeti, perché il poeta è uno stato interiore, cioè uno stato che noi possiamo... E quindi la creatività è una, cioè una forma di principio attivo che ci permette anche di essere poeti. Cioè, perché il poeta sostanzialmente è ognuno di noi. Noi abbiamo dentro la poesia. Questo abbiamo dentro. Non lo sapete, ce l'abbiamo proprio dentro. Perché tutti siamo invitati a creare. Dentro di noi. Sì, siamo invitati a creare. Certo che poi c'è, però. Siamo vicini anche al demiurgo. Insomma, il demiurgo lì. Un applauso ad Antonella e sentiamo cosa dice la nostra giuria. Siate clementi, 10, 7, 7. Sì, che abbiamo messo 7! 7, 14, 32 per Antonella! Lo sapevo, che non dovevo partire da lei, lo sentivo che c'era qualcosa che non andava. 32, che è un bellissimo voto, intanto che riusciamo a contenere la scena in qualche modo. Chiamerei Enrica con il cappello verde. Ecco. La sedia posso portarmela? Sì, la sedia qui. Eccolo. Oh, mamma mia, io gliel'avevo detto che non mi serviva, ma lui l'ha messa lo stesso. Io ce l'avevo 10. Bellissimo, io ci davo 10. È vero. fidava nel passato, ma nel presente. Allora, abbiamo la nostra vincitrice del settimo, ecco Angelico Certame. Ecco che andrà, ecco, a sfidare lo strapotere del Danilo Torrito. Ogni giorno mi seguirà come se fosse il suo fantasma. Ogni giorno andrà proprio, lo chiamerà ogni giorno dicendo, dandogli dei versi. Io sono, sarò il tuo pedineroso lungo la fine, fino alla fine del campionato. È una bravissima poetessa che in realtà è sempre stata in testa nella prima, nella seconda manche e anche nella terza, e quindi non dobbiamo fare molti calcoli. Ecco, ed è la vincitrice Chiara De Cinis. Sono felicissima di essere qui. Siamo. È un cappello, ecco. Dove sono i fotografi? Fate la foto. La vincitrice con il cappello. Il cappello a punta è un cappello chiaramente simbolico, ecco, che abbiamo inventato per questa gara, sa indicare, ecco, l'elevazione poetica e anche gioca un po' con l'immaginario anche medievale e neogotico, ecco, quindi l'idea è stata un po' questa, anche un po' dada, ecco, chiaramente c'è un po', ecco, di tutto in questo cappello, ecco, che abbiamo, ecco, realizzato. Intanto grazie a Chiara. Io vorrei sentire ancora due battute della giuria, visto che siamo arrivati alla fine, prima di lasciare la parola a lei, e se hai due versi così da improvvisare per chiudere la serata, volentieri. Allora, sono davvero molto contenta della vittoria di Chiara, ma anche se sono rimasta davvero, come ho detto prima, impressionata dalle prove di tutti. E chiaramente ho trovato un'altissima qualità. Bisogna scegliere, bisogna dare un voto, e lo si fa in base a quello anche che si sente. Io cerco proprio di seguire quello che mi coinvolge pienamente. Chiara mi ha saputo coinvolgere tantissimo, e anche perché quello che ho potuto notare è proprio il fatto che ci sia alla base della sua poesia, soprattutto l'ultima, che ha avuto questa parte performativa molto forte, che sia molta ricerca, c'è molta densità nelle sue poesie. Questo a me piace molto, perché è qualcosa che ti coinvolge profondamente. A volte alcune cose ti possono sfuggire, però credo che ti arrivino in maniera più profonda. C'è una grandissima ricerca stilistica, secondo me, e in questo a me della poesia, la poesia piace, e mi ha ricordato alcune esperienze poetiche di altri, insomma, poeti che io amo particolarmente. Però, ripeto, sono stati tutti bravi. In realtà è vero che forse non ho dato un voto altissimo a Antonella, ma mi è piaciuta molto. Io potessi dargli un premio speciale, lo darei, proprio per l'originalità. Mi sembra un personaggio uscito dalla penna di Stefano Benni. Molto benniano, un po' pennacco, un po' Benni, ecco, insomma, un personaggio davvero in questo senso. E quindi comunque mi è molto piaciuta. Ho fatto questa scelta orientata verso lei, però mi sono piaciuti davvero tutti quanti, e li ho trovati davvero a un livello altissimo. Quindi naturalmente mi complimento con te, con Enrico e tutti quanti per aver organizzato questa gara, che non mi aspettavo, devo dire la verità, fosse così alta di qualità. Quindi sono veramente contenta, grazie. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? Io il primo Angelico Certame a cui partecipo, e mi è piaciuto proprio l'ritmo, l'atmosfera e anche come si legavano una con l'altra le varie emozioni che sono entrate in circolo. Grazie. Allora io chiederei ancora una cosa a Cristina Codazza, che ha fatto parte della nostra giuria e oggi è qui con il pubblico. Grazie, anche per me è un vero piacere ritornare questa volta tra il pubblico, quindi alto livello direi di gli autori presenti, e sempre più capacità performative. Questo è importante perché è una nuova frontiera della poesia, cosa che non esisteva, diciamo, una ventina d'anni fa. Sicuramente era essere più avvezzi solo a leggere in pubblico, adesso a performare, a teatralizzare tutto. Quindi complimenti davvero a tutti. Grazie. Allora, la parola alla vincitrice, poi chiudiamo. Mi sento un sacco a mio agio con questo cappello, penso che lo terrò tutta la sera. No, grazie mille, non me l'aspettavo, però grazie mille. E, non mi piace fare gli discorsi, per cui vi saluto con una poesia piccolina che poi ha dato il titolo alla mia raccolta. saluto così. Emozionata, eh? Ho perso le parole. Emetto solo versi. Non più lupo alla luna, ma cane, magro, di strada, alla tua finestra spenta. Grazie a Chiara De Filippo, grazie a tutti voi, speriamo di avervi offerto ecco, un paio d'ore di buona poesia e rimaniamo qui. Un abbraccio a tutti, grazie. Aspetta, facciamo una foto con me lì e tutti quanti. Grazie Laura, di brutto, grazie per le tue preziose note politiche. Ciao Tascam.